Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera a quanti ci ascoltano. Questa sera parliamo di due libri che riguardano l'Italia e l'altro che riguarda il Brasile. Il primo è Crescere si può di Francesco Daveri. Buonasera professor Daveri. Buonasera. E il secondo è scritto da Andrea Gostein insieme a Giorgio Trebeschi, L'economia del Brasile. Buonasera professor Gostein. Buonasera. Io comincerei da Crescere si può, anche perché ci tocca da vicino, tocca l'Italia. Francesco Daveri, professore di economia all'Università di Parma, editorialista del Corriere della Sera e tra i promotori e tra gli autori del sito lavoce.info, tra l'altro questo libro è nella collana del mulino lavoce.info, appunto ha scritto questo libro, un'intervista fatta con Sergio Levi sulla crescita italiana. La crescita italiana è un tema di cui si parla sempre, ma sembra che sia come l'arabe felice, che si parli, ciascuno lo dice, dove sia, nessuno lo sa. Allora, crescere si può è una promessa, un'utopia o qualcosa di concreto? Professor Daveri. Ma il libro in realtà non è che chiude gli occhi su quello che vediamo, cioè noi vediamo che l'Italia non cresce, e anche se però il punto di partenza del libro è che l'Italia non cresce perché è un paese, come scrivo, verde, che è un acronimo per dire che è un paese vecchio, ricco e densamente popolato. Un paese vecchio è ostile all'innovazione tendenzialmente, e l'innovazione è alla base della crescita. Un paese ricco tendenzialmente ha poco voglia di sacrificarsi, e l'Italia è molto più ricca oggi di ieri. E poi un paese densamente popolato, insomma, in un paese densamente popolato fare un'infrastruttura costa tanto e aprire un negozio costa tanto, quindi ci sono un sacco di ragioni per cui l'Italia oggi non cresce. Eppure io nel libro provo a dire che l'Italia non è sempre stata un paese verde, ma anche essendo un paese verde, cioè vecchio, ricco, densamente popolato, può provare a crescere. Non deve farlo come in passato, cioè con la crescita hard, quella che stanno facendo i cinesi e i tedeschi oggi, cioè con l'investimento in grandi opere, magari anche nell'edilizia o comunque nelle grandi infrastrutture, ma invece lo può fare con una crescita più soft, che assomiglia più a noi, cioè una crescita basata sulle idee. Oggi per ora non l'abbiamo però ancora fatto, di investire sulle idee, quindi questo è il problema attuale della crescita italiana. Ecco, il problema è che forse le idee non fanno prodotto interno lordo. Non può essere un po' un alibi quello di dire, beh, non guardiamo tanto il prodotto interno lordo, guardiamo più alla qualità della crescita? No, certo, una possibilità naturalmente è questo, ahimè però bisogna mangiare alla fine del mese, quindi il vero problema è come far rendere le idee, quindi un sacco delle idee che hanno gli italiani purtroppo non sono facilmente brevettabili, e invece se fosse più facile difendere i nostri così i frutti delle nostre innovazioni, naturalmente il problema sarebbe largamente risolto, cioè tutti mangiano la pizza, mangiano la pasta, ma questo viene poco in tasca, in giro per il mondo tutto ciò succede, ma viene poco in tasca alle aziende italiane. Quindi uno dei problemi è che quando abbiamo delle buone idee non sempre diventano delle cose che fanno fare soldi, e quindi questo è uno dei guai, cioè nel senso che anche quando produciamo idee non riusciamo ad avere un po' di potere di mercato, o tutto il potere di mercato che potremmo avere, e quindi farci sopra profitti e creare posti di lavoro che verrebbe da questo. Quindi c'è spazio aperto anche a nuove idee per rendere le idee un fattore di competizione e soprattutto un fattore di reddito. Ecco, un'economia che è certamente cresciuta è quella del Brasile, e parliamo appunto dell'economia del Brasile di Andrea Gostein e Giorgio Trebeschi, un'economia che è cresciuta negli ultimi anni, e questo libro appunto fa un po' la storia, non è un libro di storia economica, lo dicono subito gli autori, però c'è storia economica, c'è soprattutto il fatto di come si è cambiato il ruolo di una grande potenza come il Brasile in questi ultimi anni, anche grazie al fatto che fosse una grande realtà ricca di grandi materie prime particolarmente importanti, e quindi ha avuto anche dei fattori di successo. Ma Andrea Gostein, che cosa può insegnare la crescita del Brasile a una situazione come quella italiana? Quali sono i fattori che hanno fatto crescere il Brasile e hanno portato questo paese, che era uno dei paesi più poveri, ad essere un paese forse non ricco, ma sicuramente in cui c'è meno povertà di prima? Diciamo che è sempre difficile trovare delle lezioni altrove, bisogna soprattutto guardare alla propria esperienza, al proprio passato. Se ci sono degli elementi che sono interessanti per l'Italia, direi il primo fondamentale è il fatto che le riforme siano state iniziate proprio nel momento in cui la crisi era più grave, cioè all'inizio degli anni 90. E queste crisi poi sono state risolte, ma quando poi ci sono stati nuovi momenti di debolezza, di criticità, il paese non è tornato indietro e non ha abbandonato la via di certe riforme. Ecco, un paese che ha avuto anche la capacità di fare riforme anche da un punto di vista politico-amministrativo. Ma assolutamente, è un paese federale, con tutte le difficoltà che può avere una gestione di politiche federali, ma nello stesso tempo con degli strumenti di incentivazione in modo tale che anche a livello decentralizzato le autorità politiche seguissero gli stessi dettami, gli stessi principi di politica economica che venivano poi seguiti a livello nazionale. Diciamo che l'elemento principale comunque di tutta l'esperienza brasiliana degli ultimi 20 anni è stata quella della stabilizzazione fiscale, della lotta che è stata estremamente serrata soprattutto all'inizio all'inflazione, e l'introduzione, è stato uno dei primi paesi a farlo, di una regolamentazione finanziaria e bancaria in senso macroprudenziale. Ecco, quindi in un certo senso lo stesso cammino che dovrebbe compiere anche i paesi dell'Unione Europea, una stabilità dei conti pubblici, una lotta all'inflazione, ma anche la capacità di avere le riforme interne capaci di muoversi. Certamente il Brasile parte da posizioni molto più arretrate, quindi la crescita si vede di più. Assolutamente, come diceva lei, è stata sicuramente favorita dall'aumento vertiginoso dei prezzi delle materie prime, di cui il Brasile è grande produttore, sia quelle di tipo minerario, soprattutto il ferro, che poi quelle invece agricole. E insieme a questo c'è stato un riorientamento molto deciso della direzione degli scambi del Brasile, che tradizionalmente commerciava soprattutto con l'Europa e con gli Stati Uniti, che invece negli ultimi 10 anni ha iniziato a commerciare sempre di più con l'Asia e soprattutto ovviamente con la Cina. Ecco, io tornerei a Francesco Daveri, perché uno dei punti del libro, appunto, Crescere si può, è anche quello di questa connessione con il resto del mondo, di poter approfittare della crescita degli altri paesi per quanto l'Italia può fare con gli altri paesi. E l'export resta uno dei pochi, purtroppo, punti di forza dell'economia italiana in questo momento. È così importante la connessione con gli altri, Francesco Daveri? Beh, insomma, con i tempi che corrono è solo fuori che si può andare a cercare, c'è là fuori un mondo intero che ci aspetta, questo è il punto importante e che dobbiamo metterci in testa. Questo non vuol dire che a crescere possono, o ad andare bene possono essere solo le imprese che fanno il loro fatturato all'estero, perché a fianco ai vincenti, no, quelli che magari riescono appunto ad andare in mercati come anche il Brasile, piuttosto che nei mercati più tradizionali come gli Stati Uniti o come la Germania, il resto dell'Europa, ci sono poi delle aziende che lavorano sul mercato interno, che sono magari piccole aziende di servizi e manifatturieri, che consentono alle grandi aziende di penetrare in questi altri mercati, e queste altre aziende a loro volta hanno bisogno di investire, di comprare, di fare sul mercato interno, e quindi la vera sfida per le aziende che oggi non vanno bene sul mercato interno è cercare di agganciarsi alla ripresa dei vincitori, insomma in un certo senso di quelli che riescono ad andare bene sul mercato globale, e questa è la vera sfida che credo che avrà di fronte il nostro paese negli anni che vengono, che non sarà combattuta solo con le liberalizzazioni o le strategie di rigore fiscale, che devono essere sicuramente continuate, ma che per l'appunto prevedono l'idea di insistere di più sulla crescita soft, a differenza del passato, cioè non possiamo più avere le ricchezze che vengono fuori dal nulla col cambiamento dei piani regolatori, che è il modo in cui si creano le ricchezze nell'edilizia, con le infrastrutture, perché queste sono associate a spese pubbliche che non possiamo più fare se non in misura molto più piccola rispetto al passato, e invece dagli incentivi all'innovazione, al fare bene quando uno ha fatto una scuola buona, un'università buona, e consentire ai giovani di trovare un lavoro in modo più semplice, non con la telefonata del parente importante, e questo è il modo in cui si può fare qualche cosa di pratico per agevolare l'Italia nel contesto globale. Ecco, ma in questa crescita soft ci può essere anche, anzi forse ci deve essere, uno spazio per l'innovazione tecnologica, per l'innovazione fatta appunto con le nuovissime tecnologie che fanno connettere in fondo il mondo? Naturalmente questa è un'importantissima parte. Per il momento le nuove tecnologie vengono adottate molto di meno in Italia rispetto al resto del mondo, non perché le nostre aziende non le adottino, ma perché tipicamente le nuove tecnologie sono adottate di più in imprese medio-grandi e molto di meno in imprese piccole, e le imprese piccole sono invece rappresentate in modo molto più che proporzionale rispetto agli altri paesi, anche solo dell'Europa, i nostri concorrenti come Francia e Germania. Quindi questa è una delle ragioni attuali di quello che che viene definito al momento il ritardo tecnologico dell'Italia, però è una cosa che sta cambiando molto rapidamente, e quanto più si riesce ad attaccarsi a questo treno rapidamente, non è fatto solo però di incentivi dati dallo Stato, ma è fatto del miglioramento di, come insegna l'esperienza della Finlandia degli ultimi 20 anni, del miglioramento delle scuole tecniche che servono per produrre non solo gli ingegneri ma anche le persone che devono far funzionare i computer, i sistemi, e che sono tutte cose molto importanti e che invece sono state lasciate un po' da parte negli ultimi anni. Ecco, tornerei ad Andrea Gorstein, all'economia del Brasile, proprio per vedere le prospettive anche italiane in Brasile. C'è un capitolo di questo libro che parla dell'esperienza delle imprese italiane, esperienze positive per le grandi imprese, per Fiat, per Pirelli, per Telecom, però l'Italia, sappiamo, è un paese basato sulle piccole e medie imprese. È questo in fondo che frena un po' la possibilità che il Brasile possa essere un terreno fertile. In fondo le esportazioni italiane in Brasile sono poco più dell'1% delle esportazioni totali del nostro paese. Ecco, c'è una possibilità di far crescere questa percentuale che è veramente minuscola, Andrea Gorstein? Sicuramente c'è un grande potenzialità, perché è un mercato che sta tirando, è un mercato con dei consumatori anche estremamente sofisticati, che quindi sono pronti per lanciarsi nell'acquisto di beni italiani. Oltretutto è un paese che intende investire molto nelle infrastrutture, e l'Italia da un lato non ha investito nelle infrastrutture negli ultimi anni, ma è un paese dove ci sono molte imprese che invece hanno sempre avuto delle posizioni d'eccellenza a livello internazionale nelle infrastrutture, quindi potrebbe sicuramente l'Italia e il sistema Italia essere più presenti. Ci sono delle storie di grande successo, quella della Fiat è chiaramente quella più nota. La Fiat produce ormai da tanti anni molte più vetture in Brasile di quanto ne produca in Italia, ma non c'è sicuramente stata una sostituzione, nessuna delle macchine che non vengono prodotte in Italia è stata prodotta in Brasile, che il mercato brasiliano è un mercato che tira, e il Brasile è stato un paese in cui la Fiat ha scommesso fin dall'inizio. Vorrei tornare magari sull'elemento dell'innovazione, perché come diceva giustamente il professor Daveri è una delle chiavi di volta per il nostro paese, e il Brasile sta innovando molto, sia nella maniera più formale, investendo molto in ricerca e sviluppo, e quindi si vedono i risultati dal fatto che le pubblicazioni da parte di autori brasiliani sono esplose negli ultimi anni, ma è stata anche capace di investire e di innovare in nuovi tipi di politiche, sia sociali che organizzative. E questo è appunto importante per un paese che è partito con un'estrema povertà, che era un po' un'immagine del Brasile, quella delle favelas, e che adesso si ritrova appunto forse ancora a metà del guado, come si dice in conclusione del libro, ma sicuramente un paese che ha superato i momenti più difficili e fa parte ormai delle nazioni industrializzate e di questo gruppo dei BRICS. Brasile è, anche per il ordine alfabetico, guida appunto questo gruppo dei BRICS, sono Brasile, Russia, India e Cina, che sono i nuovi protagonisti dell'economia mondiale. Grazie ad Andrea Gorstein, autore con Giulio Trebeschi del libro L'economia del Brasile, edito dal Mulino, 212 pagine per 15 euro, e grazie a Francesco Daveri, Crescere si può, il suo libro, anch'esso edito dal Mulino, nella collana La Voce Info, sono 112 pagine per 10 euro. Grazie anche a Fabio Cantadori in regia, Luca Cremonese in redazione, l'appuntamento con Economia in Pagine è per sabato prossimo.